vuol dire molto, sì. Con tutto il resto non c'è confronto. Benché tutto intorno a me si sia trasformato, l'hip hop non mi ha mai abbandonato, mai. Non è solo musica, non è vestire largo, no. Non è fare freestyle e battersi in una sfida, no. Per me l'hip hop è cultura, l'hip hop è vita, e sono così pazzo che io con l'hip hop ci parlo. Quindi, questa va a te che mi dai le emozioni, sì. Questa va a te che cancelli tutte le delusioni, che sei da tarta ad ogni mio stato d'animo. Un giorno senza te a me mi piglia il panico, ogni lacrima, ogni dolore provato aveva come sottofondo le tue note, ma non ho sempre accompagnato, sei un modello da seguire, sei libertà, un sogno lontano tramutato in realtà. Credimi, senza di te non so come farei, dove troverei la sicurezza che mi dai. Dalle cuffie la tua voce arriva dritta al cuore, so che io vivo per te, ma c'è pure chi per te muore. Ti ringrazio perché tu mi hai fermato il carattere, ed è solo grazie a te che ho imparato a combattere. Se io parlo, scrivo, suono, canto, perché io ci credo, ci metto tutto me stesso e ne sono fiero. Mi isolo con te perché spesso all'infuori di te nessuno mi capisce, nessuno mi sa ascoltare. Invece tu non mi giudichi mai, mi sento dire prima o poi ti ravvederai. Ma per me non è una moda, non passerà, cambierà tutto, tu sei l'unica cosa che resterà. Se mi chiedessero, assumi la vita in due parole, io direi hip hop, stop. Mi ha visto crescere, mi ha fatto crescere, mi ha fatto piangere, non mi fa rendere. È la mia corsa, mi dà la forza, è una speranza in questa vita contorta. È ciò per cui mi batto, mi contraddistingue, è comunicazione, una ribellione. Mi porto il mio passato, il mio presente, il mio futuro, è ciò che mi spinge a tenere duro. Non è una moda, è una passione infinita, e sorrido se ripenso a come è partita. Ho iniziato per gioco, ora ne sono dipendente, non riesco a smettere, non posso farci niente. E la mia musica non rientra in un genere, non è fatta di pentagrammi e note. È solo passione, è solo emozione, la mia vita è ripartita in ogni canzone. Spesso la gente mi fraintende, ma io so che la gente è nata per fraintendere. Se solo davvero volesse, basterebbe così poco per comprendere che hip hop è il mio sogno. Io seguo le sue orme, i quattro elementi, tutte le sue forme. Il cuore è il quinto elemento, l'hip hop lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo. Quanti sacrifici, quante rinunce, guardando gli amici, il tempo che fugge, ne pazza la pena, anche lo intuisco, dal brivido che corre lungo la schiena. Capisco che questa emozione non finirà, che la mia passione non si spegnerà. Tutto ciò fa parte del mio DNA e non cambierà con l'età. Mi ha visto crescere, mi ha fatto crescere, mi ha fatto piangere, non mi fa rendere. È la mia corsa, mi dà la forza, è una speranza in questa vita contorta. È ciò per cui mi batto, mi contraddistingue, è comunicazione, una ribellione. Mi porto il mio passato, il mio presente, il mio futuro, è ciò che mi spinge a tenere duro. L'hip hop mi ha visto crescere, l'hip hop mi ha fatto crescere, l'hip hop mi ha fatto piangere, però non mi fa rendere. L'hip hop è la mia corsa, l'hip hop mi dà la forza, l'hip hop è una speranza in questa vita contorta. E ciò per cui mi batto e mi contraddistingue è il mio mezzo d'espressione, uno sfogo, una ribellione. L'hip hop è il mio passato, l'hip hop è il mio presente, l'hip hop è il mio futuro, mi spinge a tenere duro. Hip-hop forever.